Salva Danaio di Deborah Rosciani. E buon anno a tutti da Deborah Rosciani, dalla redazione di Salva Danaio. Ci ritroviamo qui, ricominciamo un nuovo anno insieme e chi ben inizia, come sapete, è sempre già a metà dell'opera. Le borse europee, che continuano a sorprendere tutti, stanno registrando questa mattina una partenza d'anno ancora una volta con il segno più davanti. Oggi Salva Danaio riprende proprio da dove si è fermato il 30 dicembre dai mercati finanziari per osservare questa giornata di ripresa, ma anche per dare uno sguardo ai prossimi mesi, per cercare di capire se questa luna di miele tra borse e investitori è destinata ad interrompersi oppure a ridimensionarsi o a continuare felicemente. Oggi peraltro i mercati partono con una novità rispetto alla chiusura d'anno, e cioè con le dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Americana, che ha detto di temere qualche altra bolla finanziaria in arrivo, ma di essere pronto a frenarne l'insorgenza ricominciando ad alzare i tassi. Quindi già c'è questo avviso oggi piombato sui mercati. Noi partiamo da questi spunti per indagare anche tra quelle che potrebbero essere le classi di investimento e le aree geografiche con le prospettive più interessanti, sempre tenendo bene a mente che dobbiamo organizzare, pianificare i nostri investimenti in relazione alle nostre esigenze, spiegando bene al nostro consulente, al nostro intermediario, quali sono queste e scegliendo poi quelle che dovrebbero essere le migliori opzioni per collocare il nostro patrimonio e il nostro risparmio. Anche in questo 2010 abbiamo deciso di ricominciare l'anno con un nostro amico, con un amico di Salva Danaio, che ringrazio e saluto e gli faccio naturalmente tutti i migliori auguri di buon inizio 2010. Gianni Ferrari, esperto di gestioni patrimoniali, presidente dell'Associazione Italiana Analisti Finanziari, Formazione e Cultura. Ferrari, buongiorno e buon anno. Tanti auguri a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. E allora, sesto anno consecutivo di ripresa di Salva Danaio con Gianni Ferrari, ci ha portato sempre fortuna. Gianni, speriamo che sia così anche quest'anno e soprattutto che lo sia un po' per i mercati, perché attende trepidante qualche segnale forse più chiaro, più deciso su dove sta andando l'economia. Dovremmo essere ormai alla svolta, probabilmente la recessione ha toccato il punto più basso, non ne siamo ancora completamente convinti da quello che è successo nel 2009 sui mercati finanziari, visto che i mercati anticipano sempre quello che accade poi all'economia reale. Effettivamente il 2010 dovrebbe essere l'anno della svolta per l'economia reale stessa. Lo vedremo, lo commenteremo con lei, lo commenteremo anche con gli ascoltatori all'800 24 00 24, il numero verde per gli interventi in diretta, 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Allora, il nostro compito di stamattina adesso è un po' di riepilogare quello che è accaduto sui mercati lo scorso anno, ma soprattutto di guardare avanti. Ma guardiamo anche a quello che sta accadendo in questa prima giornata, in questa prima seduta del 2010. Allora, ancora una volta il mercato parte bene, anche se c'è da dire che l'ultima seduta dell'anno è stata con il segno meno, per cui oggi si riparte subito con un recupero ovunque su tutti i listini europei, ed è particolarmente brillante la seduta di Parigi, che segna un progresso di un punto percentuale. Peraltro a Parigi si è appreso poco fa il dato sulle immatricolazioni di auto in dicembre, le vendite sono cresciute rispetto all'anno precedente del 48,6% e l'anno si chiude con un balzo di oltre il 10% per le vendite di auto nuove in Francia. Francoforte segna un più 0,7%, Londra più 0,56%, oggi a Londra corrono le banche. Royal Bank of Scotland è il miglior titolo, perlomeno lo era fino a poco fa, e guadagnava appunto 5 punti percentuali, continua ad essere ancora così. Piazza Affari sta guadagnando mezzo punto, anzi adesso un po' meno, più 0,41%, e qua i titoli che stanno trainando Milano sono Pirelli, in progresso del 2,74%, Prismian più 2,38%, Mondadori più 1,94%, CIR, che è stato peraltro il miglior titolo in assoluto del 2009, oggi più 93%, l'anno lo ha chiuso con un rialzo del 149% e anche oggi continua la sua inarrestabile marcia in avanti. Tenaris più 1,80%, qua abbiamo anche sotto i riflettori oggi i titoli del petrolio, i titoli del settore energetico, perché il petrolio, poco fa abbiamo appreso, si trova ai massimi da due mesi, oltre gli $81 al barile. Anche Tokyo ha aperto bene l'anno con un rialzo di un punto percentuale, e oggi abbiamo un altro dato che magari commenteremo con con Gianni Ferrari. Il tema dell'inflazione dovrebbe essere tra l'altro un tema da approfondire proprio nel corso di tutta la trasmissione. Abbiamo sentito anche dal GR cosa succede in Italia. Nel 2009 l'inflazione italiana è cresciuta dello 0,8% ai minimi da 50 anni a questa parte, ma attenzione a dicembre perché i prezzi al consumo hanno cominciato a risollevare la testa. Un'occhiata ai peggiori titoli della seduta di Milano: Intesa meno 0,8, Telecom meno 0,5, Mediobanca meno 0,48 e attenzione anche al mercato valutario, da qualche giorno molto favorevole al dollaro. Stamattina invece l'euro ha ripreso la sua marcia, siamo adesso a ridosso di 1,44, 1,43,96 rapporto di cambio in questo momento. Stamattina invece addirittura il dollaro era riuscito a spuntarla fino a 1,42,54, ma è già cambiata rapidamente la seduta. Insomma, tanti temi da commentare relativi a questa giornata, ma soprattutto relativi alle tendenze di medio periodo. Intanto riepilogammo un po' quello che è successo nelle ultime settimane e soprattutto nell'anno che si è appena chiuso sui mercati finanziari. Un anno indimenticabile nel bene e nel male si è appena chiuso. I mercati finanziari hanno corso all'impazzata per lasciarsi velocemente alle spalle la crisi economica più dura mai vissuta dal 1929. E ora si guarda avanti, alle prospettive dell'anno che si sta avviando, nel tentativo di intercettare le opportunità da cogliere e mettere a frutto nel migliore dei modi il proprio risparmio. Gli esperti sono più o meno concordi nel ritenere che le crescite a 2-3 cifre messe a segno lo scorso anno dai listini azionari internazionali hanno anticipato una situazione economica che dovrebbe riprendere il sentiero della crescita in maniera forse più ampia di quanto sia stato possibile prevedere fino ad ora. Prudenza e selezione saranno comunque le parole d'ordine di ogni scelta di investimento, scelte che dovranno in ogni caso tenere conto delle anomalie osservate nel 2009 da analisti e gestori, a partire dalla corsa delle borse intrapresa dai minimi del marzo dello scorso anno e che ha portato in 8 mesi alcuni indici a raddoppiare il loro valore, valore che tuttavia risulta ancora dimezzato rispetto ai valori in cui si trovavano nel 2007. E poi l'anomalia delle reazioni rispetto ai fatti. Né la volatilità dei cambi, né i record delle quotazioni di alcune materie prime, né soprattutto la crisi di Dubai e quella greca hanno avuto la capacità di frenare le borse, completamente coinvolte nel rally d'autunno consolidato a dicembre. Ecco perché l'area dei prudenti invita a ridimensionare gli entusiasmi, almeno nella prima parte dell'anno nuovo, fino a quando la nuova stagione delle trimestrali fornirà indicazioni più concrete sull'andamento reale dell'economia mondiale e sulla ripresa dei consumi e degli investimenti privati. Con un occhio rivolto alle economie definite ancora, in maniera impropria, emergenti, che continueranno a fare da traino a tutto il mondo, a cominciare dalla Cina ed alcune aree dell'America Latina, come il Brasile. E per gli irriducibili investitori del mercato domestico, come si comporterà Piazza Affari? Le prospettive sono incoraggianti se si guarda alla vivacità con cui si è chiuso l'anno. Milano ha corso insieme agli altri listini e anche per il mercato domestico, dove sono quotate 332 società, il 2009 è stato l'anno dei record. Record per il mercato degli ETF, dove sono quotati 400 prodotti, per il mercato dei titoli di Stato, con 607 strumenti quotati, e quello dei derivati. Dai minimi del 9 marzo dello scorso anno, il paniere principale, il FTSE MIB, ha realizzato un progresso dell'85%, più 20% da fine dicembre 2008, mentre la capitalizzazione complessiva delle società quotate si è attestata a 459 miliardi. Una scheda piuttosto articolata per far partire questo 2010 che vuole appunto ritornare un po' ad analizzare quanto accade intorno a noi dal punto di vista dei mercati finanziari. Gianni Ferrari, so che il tema delle anomalie degli ultimi 12 mesi l'ha interessata parecchio, un po' come a noi tutti è stato il mercato dei record, oltre che delle anomalie, ma anche questi record hanno rappresentato per certi versi qualche anomalia. La crescita a 3 cifre di alcuni listini, di alcuni titoli, sono state probabilmente un po' esagerate. E allora io le chiedo come prima domanda se lei è di quella cordata dei pensatori e degli esperti che ritiene che questa luna di miele fra investitori e borse continuerà ancora nel 2010 o se quest'anno sarà un po' più l'anno della prudenza. Insomma, tutti questi ardori si placheranno. Ma innanzitutto vorrei fare i complimenti a chi ha fatto il vostro servizio, perché ho trovato molto equilibrato, che ha riassunto bene le anomalie del 2009, ma anche molto equilibrato, perché In effetti il mio pensiero è abbastanza in linea con quanto avete detto voi, nel senso che io vedo il 2009 come l'anno del D-bottom, cioè come l'anno a livello di listini dove si è perso il 30%, un ulteriore 30% nei primi tre mesi, ma dove poi dai minimi di marzo a oggi si è quasi raddoppiato a livello di indici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la borsa anche questa volta, come sempre, ha dimostrato la capacità di anticipare i movimenti dell'economia. Questo non vuol dire che l'economia nel 2010 sarà radiosa, vuol semplicemente dire che c'è stato un fortissimo rimbalzo che ha riposizionato i mercati dopo un crollo epocale più grande, uno dei più grandi della storia. È vero, la borsa è raddoppiata in 7-8 mesi, ma è anche vero, come avete detto bene voi, che la borsa è dimezzata rispetto a due anni fa. Già questa è un'anomalia, una borsa che raddoppia in pochi mesi e che pure è ancora dimezzata. Cosa significa? Significa che i mercati si sono riposizionati, si sono portati su dei livelli di equilibrio, stando perlomeno agli attuali ratio dei price earnings, siamo prossimi attorno a 15-16 volte gli utili, cioè molto prossimi a quelle che sono le medie storiche di lungo periodo degli indici. Oltretutto c'è da segnalare che nelle ultime settimane, un ultimo mese, mese e mezzo, i listini, pur continuando a tenere un'intonazione positiva, hanno fatto un po' di surplus, come dire, noi siamo raddoppiati, ci siamo riposizionati, siamo arrivati su livelli di equilibrio, abbiamo anticipato la ripresa, ma adesso vediamo quali sono le indicazioni reali che ci vengono dall'economia. E in quest'ottica, e concludo, credo che ci sarà un forte focus sul periodo marzo-aprile, in cui non solo appariranno i bilanci di chiusura del 2009, ma ci saranno anche i rendiconti del primo trimestre dell'anno nuovo. E infatti, noi Ferrari, io lo ribadisco per gli ascoltatori che fossero intenzionati anche ad intervenire su questo, vorremmo proprio gettare uno sguardo in avanti, però io voglio rimanere ancora per qualche secondo all'anno passato, solo perché vorrei sollecitare una sua risposta su un'altra anomalia, sulla quale io interrogo un po' tutti coloro che sento, ma non riesco ancora a trovare una spiegazione, come dire, esauriente, quantomeno è sempre la stessa rispetto a quanto accaduto, e cioè perché il mercato è stato quasi completamente insensibile rispetto a due grandi crisi che sono intervenute negli ultimi mesi e che ci hanno spaventato solamente per l'arco di mezza giornata. Mi riferisco alla crisi di Dubai, che ha fatto scendere anche di molto i listini, ma appunto per una giornata o poco più, -3-4%, e la crisi greca in Europa sembra completamente essere trascurata da tutti. Probabilmente questo stato verrà fatto ritornare sui ranghi del bilancio pubblico in maniera abbastanza forte dal proprio governo, e comunque l'Europa non sembra essersene preoccupata più di tanto. Come mai? Sono davvero dei pericoli così isolati, quindi dobbiamo essere tranquilli, o è solo due campanelli d'allarme che torneranno a squillare entro breve? Cerco di rispondere, sono campanelli d'allarme importanti, però perché è vero quello che ha detto lei, cioè che sono stati considerati solo per un giorno o due? Perché si sono inseriti all'interno di un impulso molto più forte, così come quando nel periodo maggio 2007-marzo 2009 la borsa è crollata, è iniziato prima a scricchiolare e poi è crollata, pure ogni tanto c'è stato qualche buon campanello positivo, ma non veniva percepito perché l'impulso era quello ribassista forte, così questi due segnali, e soprattutto quello della Grecia, che è stato forse sottovalutato più di altri, si sono inseriti all'interno di un momento di forte recupero, un momento in cui i mercati si mettevano gli occhiali rosa, quindi sì, il contraccolpo si è sentito, ma si è sentito solo per uno o due giorni. Una volta finito questo forte movimento impulsivo, anche un po' così, più che razionale, anche a sensazione, che si è verificato sui mercati, torno a dire, siamo in una fase di surplus dove d'ora in poi segnali come questo, come molti altri, a partire da quelli microeconomici, verranno valutati con magari un po' più di razionalità. Quindi, come dire, se la crisi di Dubai dovesse, o quella greca, va, parliamo un po' di quella, tra 2-3-4 mesi, quei magari mercati surplus, magari avrebbe un effetto più forte. Più forte, magari accontentare tutti coloro che non sono riusciti a prendere il treno della borsa un anno fa, quando davvero ci trovavamo su livelli minimi e i mercati finanziari stavano raschiando il barile, e qualcuno, insomma, per paura non ha preso, anche gli investitori professionali, insomma, non sono riusciti a farlo, non hanno preso quel treno, aspettando qualche altra occasione che poi non è arrivata, perché invece abbiamo avuto anche questo sorprendente rally d'autunno. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo proprio un minutino di pausa con il meteo, un po' di pubblicità, c'è già una domanda di un ascoltatore da Roma pronto ad intervenire. Io adesso non vorrei ovviamente sgridarlo, lascerò fare sicuramente la domanda a Bruno. Credo che lui voglia chiedere chiedere anche quali sono i titoli di borsa consigliabili. Noi non diamo delle ricette così esplicite a salvadanaio, lo sapete bene perché da 6 anni abbiamo questa politica stringente, ma sicuramente possiamo invece focalizzarci sui settori che potrebbero avere delle prospettive di crescita interessanti o più interessanti rispetto ad altri, per cui Bruno magari la invito a riformulare la domanda che ha in testa in questi termini, se può. Grazie, 800 24 00 24, continuate però voi anche tutti gli altri a prenotarvi, ritorniamo tra pochissimo. Salva Danaio ripresa oggi regolarmente la nostra diretta, naturalmente non poteva che riprendere da un tema caro a noi, a tutti gli ascoltatori, e cioè l'andamento dei mercati finanziari, analizzando intanto questa ripresa d'anno per le borse europee. Vedremo poi cosa accadrà nel pomeriggio a Wall Street, ci sono già dei dati economici, peraltro questa settimana ne arriva uno importantissimo, quello sull'occupazione, la disoccupazione di dicembre, e siccome è un dato che monitoriamo in maniera ossessiva, visto che siamo sui livelli del 10%, allora ci interessa particolarmente questa settimana focalizzare di nuovo l'attenzione proprio sui livelli occupazionali americani, perché da quello dipendono anche i consumi statunitensi e quindi un po' la ripresa generale. Quello rimane sempre e comunque il nostro faro. E abbiamo sentito la scheda e stiamo commentando un po' i temi principali che stanno condizionando le sedute negli ultimi mesi e che probabilmente potranno continuare a condizionare le sedute sui mercati, con un ospite ormai fisso di Salvadanaio da 6 anni, nella prima puntata dell'anno, Gianni Ferrari, esperto di gestioni patrimoniali e presidente dell'Associazione Italiana Analisti Finanziari, l'AIAF, formazione e cultura. E allora, ci sono anche altre cose che vorrei commentare di stretta cronaca, come le dichiarazioni del numero uno della Banca Centrale Americana, Bernanke, che ha detto di essere pronto ad alzare i tassi se si ripresenta al varco una nuova bolla finanziaria. E siccome ce ne sono un po' che serpeggiano, ce n'è qualcuna sulle materie prime, ce ne sono anche altre, allora vorrei tra un po' sentire anche il commento di Ferrari su questo, però accontentiamo anche già subito i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. L'anno si apre con un ascoltatore di Roma che è Bruno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare una domanda e una considerazione. Ora, l'inflazione sta riprendendo e quindi i BTP legati all'inflazione in teoria dovrebbero salire. D'altra parte, volevo sapere, la domanda invece, su quali settori puntare con questa ripresa. Benissimo Bruno, e con le sue considerazioni chiudiamo la trasmissione. Grazie a lei. No, sono talmente ampi, e peraltro sono due bei temi che avevamo già in mente di affrontare con Gianni Ferrari, perché so che lui ha una teoria molto chiara a proposito della cosiddetta chiamiamola così trappola dell'inflazione in vista, perché tanto questi prezzi dovranno prima o poi ricominciare a salire, Ferrari, perché anche questo è una buona indicazione per la ripresa dell'economia, e però insomma riprenderà anche, come dire, in termini schizofrenici come abbiamo visto l'anno scorso. Non è che ci farà una sorpresa del genere l'inflazione, Ferrari? Ecco, io ci tengo a rapidamente affrontare il tema della trappola dell'inflazione. Perché? Perché se c'è un punto sul quale tutti gli analisti sono concordi, è quello di dire che per i prossimi 6, 12, 18 mesi l'inflazione non sarà un problema. E devo dire che purtroppo le argomentazioni che portano a conforto di questa tesi sono argomentazioni forti. La prima tra tutte è che la crisi può darsi nel suo punto estremo e alle spalle, ma adesso arriva il colpo di coda della crisi. Arrivano alcune centinaia di migliaia di ulteriori perdite di posti di lavoro in Italia. Questo significa che un'inflazione da pressione salariale è impossibile che si verifichi. È mediamente quella che dà la spinta un po' più forte a tutto l'indice. È una di quelle che dà la spinta più forte. L'altra, che è la inflazione da consumi, anche questa non si vede come possa arrivare, visto che con le ulteriori disoccupazioni, con una crescita dei consumi che nel 2010 sarà attorno allo 0,4, 0,5, 0,6%, quindi irrisoria, la crescita forte che c'è stata, come voi avete ben detto, delle materie prime, non so, il rame è triplicato, nessuno lo dice, ma il rame ha delle applicazioni industriali infinite ed è triplicato in pochi mesi. Noi abbiamo enfatizzato molto l'andamento dell'oro lo scorso anno, però insomma è stato solo uno dei tanti casi, quello l'oro più vistoso. I platini sono saliti, però ci sono metalli meno nobili ma che servono molto di più, come il rame, lo stesso petrolio, che da 30 è andato 80. Però le aziende in questo momento sacrificano un po' di margini, ma non possono automaticamente ribaltare sul prezzo finale al consumo questi aumenti, perché i consumi non ci sono. Quindi è vero, l'inflazione in questo momento è un non problema, però qual è la trappola? La trappola dal punto di vista del piccolo risparmiatore, che dice: il bot non mi rende più niente, il conto corrente a zero, ma vede dei BTP sicuri, tranquilli, che rendono un 3,5, un 4, un 4,20% netto, dicono ma perché no? Peccato che questi 3,5, 4, 4,20, 4,5% netto siano scadenze di 15-20 anni. Quindi va bene anche comprare un po' di questi, così rispondo alla domanda sull'inflazione, però diversificando e essendo anche molto pronti e molto veloci a rivendere, perché quando poi arriva l'inflazione, non dimentichiamo che sono stati stampati milioni e milioni di dollari in tutto il mondo, negli Stati Uniti in principal maniera, ma e di euro anche in Eurolandia per fronteggiare la crisi, quando ci sarà un passo più avanti del ciclo, la ripresa sarà veramente ripresa, l'inflazione da materie prime sortirà i suoi effetti e l'inflazione ci presenterà il conto, i BTP a 15, 20, 30 anni saranno quelli che prenderanno la bastonata più grossa. Allora, l'inflazione quando ci ripresenterà il conto? Comunque, per sintetizzare all'estremo il suo ragionamento, mi sembra che non sia un problema che si presenterà alla porta nel giro di 6 mesi o addirittura di 12 mesi. Allora le chiedo, perché Bernanke, visto che lo strumento della politica monetaria è destinato anche ad arginare il problema dei prezzi quando questi crescono in maniera troppo forte, se per il momento questo è un problema che non ci sarà, per quale motivo il Presidente la Banca Centrale Americana dice attenzione, di quale bolla secondo lei ha paura Bernanke? Perché non dimentichiamo che questo avviso di Bernanke è un chiaro avviso ai naviganti, molto forte. Va anche detto che nessun membro della Banca Centrale Europea per il momento ha rilasciato una dichiarazione del genere. Questo non ci deve stupire, perché la politica, la filosofia della Banca Centrale Europea è estremamente diversa da quella di Bernanke e dei suoi predecessori. Capito di controllare l'inflazione, visto che allora l'allarme non c'è. Esattamente, come è nello statuto della BCE e non è nella Federal Reserve. Quello che vorrei aggiungere è che gli Stati Uniti e Bernanke e i suoi predecessori sono stati molto pragmatici, sono stati i primi a intervenire preventivamente massicciamente sui tassi azzerandoli, cosa che la BCE ci ha messo molto più tempo a fare. Quindi è naturale che siano anche i primi a lanciare un alert, a lanciare un avviso ai naviganti contro il timore di possibili bolle, sulle quali poi peraltro ci si deve intendere. Allora, poi ritorniamo magari sul discorso delle bolle, perché è interessante, perché peraltro qualcuno magari l'aspetta anche per poterla cogliere come opportunità, qualche investitore spregiudicato e scaltro, ma noi invece amiamo soprattutto l'approccio tranquillo. E ci sono due domande in questo senso di due ascoltatori. Non mi sono dimenticata che Bruno ci ha chiesto anche di dare qualche indicazione di settore. So che Gianni Ferrari ha fatto uno studio proprio per Salvadanaio su questi punti, però Mario da Ferrara, un investitore invece prudente e tranquillo, e credo che volesse proprio intervenire su questa sua attitudine all'investimento. Mario, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Chiedo un consiglio per un investimento tranquillo senza ottenere grandi pretese, visto che i titoli di Stato non rendono più niente, cioè dove indirizzarsi, quale via prendere senza ottenere, senza avere grandi pretese, però per avere un minimo di tranquillità. Questa è la mia domanda. Anche perché, Mario, io vorrei magari, facendomi aiutare da Gianni Ferrara, ricordare che non è detto, adesso sì, il titolo di Stato sicuramente rende poco, ma non è detto, perché lui dice io scelgo quello perché lo reputo tranquillo, ma adesso mi rende poco. Ma non è sempre detto che il titolo di Stato, il titolo governativo sia poi così tranquillo, Ferrari, perché anche lì insomma gli sbagli. È assolutamente corretto quello che stai dicendo, lo dicevo io prima, ci sono dei 4% netti con dei BTP a 20 anni, se riparte l'inflazione questi BTP perderanno di prezzo molto più di quello che rendono di rendimento. Ma per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, la prima risposta è quella di crearsi un giardinetto guardando la propria propensione al rischio. Se la sua propensione al rischio è di non avere azioni ma di avere cose tranquille, gli stessi titoli di Stato, che pur non rendono tantissimo, se ben miscelati, possono dare dei buoni risultati. Un po' di 10-15 anni, un po' di CCT per preservarsi da timori di inflazione. E poi non disdegniamo il fatto che con la garanzia statale anche i famosi conti correnti online, che sembravano un po' dimenticati, quindi i conti di deposito sono molto, molto competitivi rispetto ai conti correnti o ai bot. E infatti c'è qualche promozione già in giro che comincia ad essere riproposta dalle banche che operano esclusivamente in questo settore. Il tutto, Ferrari, in attesa che ci siano dei tempi un po' più interessanti anche sulla borsa. E allora, se io le faccio la domanda, come distribuiamo il rischio in questo momento, ammettendo di essere, come dire, un carattere, un profilo di risparmiatore un po' più audace rispetto a quello di Mario? Ma io prima guardo, sì, rispetto a quello di Mario senz'altro, nel senso che si guarda anche al mercato azionario, ma io guardo un po' il profilo di quello che è il tipico ascoltatore di questo bel programma, quindi non lo speculatore, il piccolo risparmiatore che ragiona in euro. Quindi cominciamo dall'area geografica. Una delle aree geografiche in questo momento più gettonate sono gli Stati Uniti, il paese che ha speso di più per fronteggiare la crisi, è quello che sembra avere delle aspettative di crescita del PIL per il 2010 più elevate sicuramente rispetto a Eurolandia e alla stessa Italia. Però per un piccolo risparmiatore che ragiona in euro, sommare al rischio azionario, che è comunque un rischio elevato, anche il rischio valutario di una moneta, di una valuta come gli Stati Uniti, che come dire è stata molto ballerina negli ultimi anni, molto volatile, beh, ecco, questo ci penserei un attimo. Quindi se vogliamo canalizzare il rischio sull'azionario facciamolo, ma magari accontentiamoci di investire sull'area europea dove almeno il rischio valutario non ce l'abbiamo. E possiamo insomma mantenere un po' più sotto controllo senz'altro l'investimento, no? Esattamente. Scendendo un po' più nei settori, io per la prima parte dell'anno mi concentrerei sui settori meno volatili come l'alimentare, il farmaceutico, lo stesso settore energetico, per poi spostarci sui ciclici un po' più avanti quando avremo visto che la ripresa è ripresa e se i dati dell'economia reale che arriveranno saranno in linea con queste aspettative. Ferrari, a proposito del farmaceutico che lei ha citato, questa mattina mi riguardavo un po' di giornali degli ultimi giorni per capire anche quali altri, le altre testate concorrenti, che tipo di analisi avessero scritto e fatto per i lettori, appunto proprio a proposito dei temi che stiamo affrontando questa mattina. Panorama Economy scrive anche a proposito della riforma sanitaria, che il grande successo recentissimo del presidente americano Barack Obama. Se la riforma di Obama, intitola un trafiletto da sprint ai farmaci, lei pensa che potrebbe essere possibile una, anche se in realtà comunque dipende, l'assistenza sanitaria americana non è esatto, perché non riguarda esattamente questa riforma, più che altro direi il settore magari assicurativo. Esatto, dipende assolutamente dal modo in cui verrà attuata, perché potrebbe essere un grosso boost, magari più per gli assicurativi che per i farmaceutici, potrebbe essere anche in qualche modo penalizzante per le grosse case nel caso in cui i regolamenti fossero un po' più family friendly rispetto a quello che però insomma lei dice che magari è un evento, un percorso da su cui abbiamo ancora troppo pochi elementi per poter valutare gli impatti. Allora, Antonietta da Acquiterma. Antonietta, buon anno. Sì, grazie, buon anno anche a voi. Ci dica tutto. Allora, la domanda riguarda una gestione finanziaria su cui, diciamo, negli ultimi mesi ho avuto qualche serio problema, nel senso che ci sono state perdite anche abbastanza consistenti. Sono stata un attimo sull'idea prima di cambiare, cioè di togliermi completamente, poi ho resistito, diciamo che ultimamente la cosa è migliorata. Posso avere qualche buona prospettiva per il prossimo, diciamo per quest'anno? Ho capito che è una previsione molto difficile, no, ma più che altro non due è parole in merito. No, più che altro perché bisognerebbe capire come è composta la sua gestione finanziaria, se ci può dare qualche indicazione. Guardi Antonietta, ci rifletta su un attimo se magari ha il prospetto sotto gli occhi, se lo ricorda a span, perché così possiamo darle una prospettiva un po' più concreta con Gianni Ferrari. Io intanto ricordo anche agli altri ascoltatori che possono prenotarsi all'800 24 00 24. Ci prendiamo 30 secondi di pausa con i suggerimenti per chi è in viaggio, poi torniamo alla nostra ascoltatrice da Acquiterme. Salva Danaio. E insomma, riguardiamo ancora i mercati finanziari per capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. In realtà stiamo, ovviamente, come non facciamo da tempo, non sbilanciandoci troppo in questo senso. Sicuramente però sulla base di quello che è accaduto si può tentare di costruire una previsione di massima, perché ormai magari qualche tendenza macroeconomica comincia ad essere evidente. Questo sarà l'anno in cui potrebbero ricominciare a salire i tassi di interesse senza correre tanto dietro all'inflazione, perché questo non è un problema esattamente all'ordine del giorno, questo è un problema che ci presenterà il conto, come dice Gianni Ferrari, almeno nel giro di 24 mesi, ma intanto andiamo un po' ad analizzare, a commentare così anche gli investimenti dei nostri ascoltatori. Antonietta, ha rifatto un pochino sì. Un punto della situazione? Sì. Sì, io niente, ho letto un attimino sul foglio che ho disponibile che riguarda, diciamo così, questa gestione, e vabbè, è suddivisa in due parti, una parte io ho l'indicazione generale è focus bilanciata e l'altra è focus total return. Non so se questa indicazione così può ci si può risalire comunque al contenuto inconsistente, nel senso che in genere quando aderiamo a queste gestioni non sappiamo mai con esattezza bene il contenuto dei titoli. Ecco, questo è forse il grande sbaglio che viene effettuato quando si fanno operazioni di questo genere. Infatti, Antonietta, l'importante poi comunque in ogni caso alle persone, giustamente, perché vanno un po' come vanno, anche ecco, perché noi molto spesso facciamo va bene anche per noi, facciamo però un altro lavoro e non ce la facciamo neanche ad interpretare. Magari facciamo così, facciamoci questa promessa che il 2010 possa essere anche l'anno in cui vi aiutiamo a leggere un po' meglio e nelle vostre esigenze di risparmio e di accantonamento delle vostre risorse, ma anche magari cerchiamo di capire un po' meglio come si leggono gli investimenti che ci propongono. Noi peraltro nei prossimi giorni faremo proprio un check-up di inizio anno con due consulenti per capire come si fa in una parte dell'anno così importante come questa a capire come orientare i nostri risparmi. Allora Gianni Ferrari, mi rendo conto che non abbiamo saputo molto di più rispetto all'investimento della nostra ascoltatrice, perché però c'è un prodotto bilanciato, esatto, da quello che ho capito, sì, un total return. Cosa significa? I prodotti total return sono dei prodotti con i quali si dà molto carta bianca al gestore e questa carta bianca dovrebbe essere ricambiata almeno negli auspici da una gestione che non sia troppo collegata ai rovesci o alle euforie di borsa. Un total return è un tipo di gestione che cerca di avere un rendimento il più possibile positivo, ma abbastanza decorrelato, cioè quindi non troppo ancorato ai rialzi e ai ribassi di borsa, e quindi non va paragonato a una borsa che crolla o una borsa che schizza, va paragonato, non so, agli altre forme di rendimento come possono essere i BTP o quant'altro. Invece la parte bilanciata viceversa è una parte che per almeno un 40-50% in genere è molto correlata all'andamento della borsa, e quindi non mi stupisce quello che ci ha detto Antonietta, cioè che per la prima parte dell'anno ha avuto un po' di dolori, ma che nella seconda parte dell'anno c'è stato un miglioramento. Cosa farebbe lei adesso? Antonietta è comunque del tutto insoddisfatta rispetto a quello che ha sottoscritto, bisognerebbe correre subito dal consulente, farsi dare spiegazioni rispetto a quello che è stato il lavoro fatto. E che dice lei? Sì, assolutamente sì, e soprattutto quello che diciamo ormai da 6 anni, ma che anche voi da questa emittente dite molto spesso e molto correttamente, cioè prima l'italiano ci mette un anno a comprare la macchina e ci mette magari 2-3 settimane a sottoscrivere un fondo o una gestione. Questa è un po' un'anomalia, perché la macchina, per bella che sia, non vale come tutti i nostri risparmi, quindi al di là della battuta, dedicare un po' più di tempo e un po' d'attenzione non avere la vergogna di farsi spiegare le cose quando non le si sono capite, quindi prendersi un attimo di calma e fare delle scelte che non siano dettate dalla moda del momento, ma che siano con un'ottica di 2-3-4 anni. Poi io adesso dirò una cosa che farà molto arrabbiare molti di quelli che ci ascoltano, perché sicuramente Antonietta avrà magari un promotore finanziario che la segue, molto professionale, che sicuramente ha a cuore tutte le esigenze della nostra ascoltatrice, ma che magari gli ha venduto il prodotto di casa. Allora Antonietta, se ce l'ha nei pressi della sua città un consulente indipendente che guarda solamente alle caratteristiche di questo prodotto e le dice insomma che cosa le è stato venduto, forse potrebbe essere la soluzione. Io peraltro in questo check-up che farò nei prossimi giorni, esattamente il 7, il giorno dopo appunto dell'Epifania, metterò proprio a confronto due modalità diverse di fare consulenza, quella di un consulente indipendente e quella di un promotore finanziario, quindi ma non tanto per mettere a confronto la loro professionalità, tanto anche per così insegnare a voi come devono essere fatte le domande all'uno rispetto all'altro. Molto spesso si equivalgono e devono darci appunto le risposte ovviamente concrete nella stessa misura, solo che evidentemente uno vende prevalentemente i prodotti di casa propria rispetto all'altro che invece fa, come dire, proprio un'analisi del tutto neutrale rispetto al prodotto che si è acquistato e quindi campa di quella consulenza. Sentiamo anche Fabrizio da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare questa osservazione, secondo me è importante, perché ci sono tanti. Allora Fabrizio, facciamo una cosa, se è tanto interessante allora noi vorremmo sentirla ovviamente bene al telefono. Chiedo alla mia collaboratrice Gaia se possiamo ripristinare la telefonata con l'ascoltatore. E ci sono degli ascoltatori invece che ci scrivono, Ferrari, e che saluto Buddy, che è un ascoltatore che ci scrive spesso, che dice che sarà un anno molto interessante per il settore tecnologico. Beh, diciamo che molto smalto questo comparto, mi pare che non l'abbia mai perso, visto gli iPod, i telefonini che continuiamo a vendere, oppure anche l'elettronica, per esempio, di largo consumo, è stata in sofferenza proprio in virtù del fatto che i consumi stagnano ovunque. Sì, è stata insofferente per questo motivo e anche per il motivo che se c'è stata anche prima della crisi un'inflazione tutto sommato bassa è perché l'inflazione è stato, come dire, la media tra i prodotti di base che ancora nel 2007 crescevano del 7-8-10% dei prodotti tecnologici, faccio il caso dei televisori a plasma che si sono decimati di prezzo, dei telefonini e così via, quindi la riduzione dei prezzi sul mercato un po' ha fatto soffrire anche i margini della società. Però è vero quello che dice l'ascoltatore, perché se guardiamo l'andamento degli indici del 2009, quello che è andato meglio di tutti o uno di quelli che è andato meglio è stato il Nasdaq, cioè l'indice proprio dei titoli dei settori tecnologici della borsa americana, che è cresciuto del 44-45%, cioè del doppio rispetto all'indice Dow Jones o Standard & Poor's. Quindi questo senz'altro nelle fasi di rialzo è un moltiplicatore di rendimento, purtroppo lo è anche nelle fasi di ribasso. Certo. Fabrizio da Firenze abbiamo recuperato, buongiorno. Buongiorno, volevo fare un'osservazione importante, secondo me, ai vostri esperti, perché io nella prospettiva appunto di un violento rialzo dei tassi dovuto all'inflazione mi sono cautelato con un ETF obbligazionario short. È anche vero però che io mantengo comunque in portafoglio un BTP con scadenza 2020, quindi diciamo con un orizzonte temporale piuttosto alto, perché se portato a scadenza rimane comunque un ottimo investimento e nello stesso contempo mi tutela anche dall'altro bilancio all'altro tipo di investimento. Fabrizio, sentiamo che cosa pensa di questo suo giardinetto Gianni Ferrari. No, mi sembra che l'ascoltatore sia non un piccolo risparmiatore ma abbastanza già evoluto, perché utilizza degli strumenti che non tutti utilizzano. Mi sembra una cosa abbastanza, come dire, è già sensata, abbastanza equilibrata. È vero che il 2020 a scadenza renderà a oggi, credo, attorno al 4%, ai prezzi di oggi. Certo, faccio l'ipotesi scolastica, se nel 2020 l'inflazione fosse quella degli anni 70, credo che il suo 4% lo farebbe rallegrare poco, però d'altro lato avrebbe guadagnato molto con l'ETF ribassista. Quindi senz'altro nell'ottica del giardinetto, un giardinetto già molto evoluto, complimenti quindi all'ascoltatore. E vedo che anche Giuseppe da Roma vuole continuare a puntare sui titoli di Stato e quindi Giuseppe? Grazie. Buongiorno. Senta, io ho un portafoglio di BTP, poi ho due obbligazioni societarie, e queste BTP vanno dal 2015 al 2021, sono state comprate tutte sotto a 100. Sì. Volevo sapere, mantenere o cosa mi aspetta per il futuro? Giuseppe, magari lo sapessimo cosa accadrà sull'inflazione, vale lo stesso ragionamento Ferrari che abbiamo fatto poco fa per l'ascoltatore precedente? Senz'altro sì, il ragionamento è lo stesso che abbiamo fatto poc'anzi, quindi nel breve io penso che continueranno a essere dei buoni strumenti finanziari, per i prossimi 6-12 mesi non vedo un rialzo forte dell'inflazione. Attenzione che i tassi possono rialzare, anche i tassi reali, voglio dire indipendentemente dall'inflazione, un rialzo dei tassi può esserci, e la frase che avete, con la quale avete iniziato la trasmissione, di Bernanke, per il momento è soltanto un alert, un warning, però può essere anche un avviso ai naviganti abbastanza forte. Noi ci rimangono 3 minuti, Ferrari. Abbiamo tenuto fuori dalla nostra conversazione fino a questo momento tutto il tema bancario, quello che è successo tra le banche negli ultimi 18 mesi, le banche che hanno anche amplificato per certi versi la fortissima crisi finanziaria, quando per esempio c'è stato il momento in cui non si prestavano più denaro fra di loro e hanno fatto schizzare gli Euribor, quindi i tassi di mercato alle stelle, e di conseguenza portandosi dietro anche i nostri mutui. Allora, sul settore bancario, lei oggi come vede la situazione? Perché in una delle ultime puntate di Salvadanaio, i miei colleghi giornalisti, che avevo ospite appunto a Salvadanaio, hanno cominciato a raccontarci, hanno sostenuto che in sostanza non è che si siano proprio tolte la cattiva abitudine di continuare ad immettere sul mercato i derivati, tutti questi prodotti appunto di sofisticazione finanziaria che hanno creato i grossi danni degli ultimi mesi. Questo settore, lei come lo vede? Ruberò proprio 30 secondi per dire questo. Recentemente ho fatto un convegno e il titolo era cos'è accaduto della più grave crisi finanziaria degli ultimi 70 anni e perché non lo abbiamo imparato. In effetti, secondo me, molte delle criticità che erano presenti 12, 18, 24 mesi fa purtroppo sono presenti ancora, dai super bonus al super utilizzo dei derivati, ai CDS, cosa che molti non sanno neanche cosa sono, che contano un multiplo del PIL mondiale, quindi sono le follie che hanno, se non dico prodotto, sicuramente hanno amplificato la crisi e purtroppo non sono ancora state nettate dal mercato finanziario, anzi continuano a esserci, questo c'entra magari poco con le banche, magari c'entra, valutatelo voi. Per quello che riguarda il resto, le banche italiane sono in una condizione di sicuramente di maggior solidità, anche perché prima venivano considerate più arretrate perché utilizzavano l'ultima frontiera del derivato più accessoriato. Questa è stata anche una forma di tutela, di difesa, magari involontaria, delle banche italiane rispetto alle altre. Purtroppo non vedo ancora un mutamento proprio filosofico, etico e concettuale su queste cose. Qua e là le vedo ancora come si vedevano 12, 24, 36 mesi fa. È solo che adesso abbiamo una bella lezione alle spalle, da cui probabilmente avremo imparato anche qualcosa. Adesso io ce li ho davvero, non più di 30 secondi. Ferrari, però un suo commento su Piazza Affari a Milano, dove andrà quest'anno? Ma io credo questo, che la borsa ha dimostrato la sua, ancora una volta, la sua capacità di anticipare gli eventi, è crollata prima che si entrasse in recessione, è raddoppiata prima che si uscisse dalla crisi, adesso quello che conta sarà vedere i dati dell'economia reale. La borsa è su livelli di equilibrio, i price earning tra 15 e 16 volte gli utili, è attorno alle sue medie storiche, quindi sarà molto importante guardare, credo verso marzo-aprile avremo dei segnali forti. La borsa riprenderà una certa volatilità, ma dei livelli, secondo me, che resteranno lontani a quelli del panico che abbiamo visto a febbraio-marzo dell'anno scorso. Gianni Ferrari, io la ringrazio, le auguro buon anno. Tanti auguri a tutti voi. Grazie molte per essere stato con noi anche quest'anno, chissà che non ci sentiamo ancora all'inizio del 2011. Intanto noi terminiamo qua, io vi ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza anche di riascoltarci, di riprendere ad ascoltarci in questo inizio d'anno. Ritorniamo domani, parleremo di class action, attenzione che molte associazioni dei consumatori sono già pronte, come per esempio qualcuna che vuole denunciare le banche per la commissione di massimo scoperto. Faremo il punto sull'utilizzo per i consumatori di questo strumento, a cosa serve, cosa parte concretamente. È tutta, domani.